adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perfetta. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perfetta. In pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perfetta. In pace. Amen.